in primo piano. Buongiorno, giovedì 19 marzo, sui quotidiani di tipo diciamo generalista campeggiano ovviamente la polemica sulle parole del Papa e le reazioni governative da parte dei governi europei. Sul Sole 24 Ore però cominciamo la nostra rassegna stampa, come sempre dal Sole 24 Ore si dà spazio invece al decreto legge sugli incentivi, decreto legge che viene discusso in queste settimane per la sua definitiva conversione. Perché? Perché in questo decreto legge hanno trovato posto una serie di incentivi per la borsa. Il titolo principale del Sole 24 Ore di oggi è incentivi alla borsa, spazio al buyback e ai rafforzamenti. Le proposte della Consob entrano nel decreto, autorizzata la stretta delle soglie antiscalata. Spiega il richiamo di prima pagina che annuncia poi gli articoli di Rossella Bocciarelli e Riccardo Sabatini all'interno, incentivi e scudi antiscalata in arrivo per Piazza Affari. Le società potranno raddoppiare la quota detenibile in azioni proprie fino al 20%. Lo prevede un emendamento al decreto incentivi che raccoglie i suggerimenti venuti dal presidente della Consob. In più, l'azionista che voglia far crescere la sua quota tra il 30 e il 50% potrà accelerare del 5% all'anno. Sempre dalla prima pagina in Sole 24 Ore, una serie di dati su come sta andando l'economia. Perché? Perché Vincenzo Chierchia ci spiega che dall'elettronica all'alimentare le aziende vedono meno nero, primi segnali positivi, con molta cautela naturalmente, facendo tutti i debiti scongiuri, ma sembra intravedersi qua e là qualche motivo di ottimismo. La produzione industriale, spiega infatti Chierchia, inizia l'anno con una nuova flessione. A gennaio l'indice corretto per i giorni lavorativi ha segnato un calo del 16,7%, il più elevato dal 91, per l'auto flessione del 54,6%, ma qualche timido segnale positivo di una possibile inversione di tendenza non è mancato. Perché? Perché tra dicembre e gennaio la produzione è cresciuta per settori chiave come l'elettronica e l'alimentare e per il macro comparto dei beni strumentali. Sono numeri ancora piccoli, un più 2,8 per l'elettronica, un più 0,5 per l'alimentare, un più 0,5 per i beni strumentali, ma di questi tempi vedere un segno più per quanto riguarda questo tipo di dati è già una indicazione molto molto confortante. Sempre la prima pagina, Sole 24 Ore, cambiamo completamente argomento. La moda anticipa le stagioni, saldi estivi a primavera, ci spiega Paola Bottelli che nel quadrilatero della moda a Milano il tantan batte forte a senso unico, i direttori dei negozi dei marchi del lusso e tutti gli addetti insomma a questo settore del lusso, dei vestiti di lusso, degli accessori di lusso concordano anche per la stagione primavera-estate, i saldi saranno super anticipati, per l'esattezza tutti vociferano di un avvio concordato dal 25 aprile, sabato festivo, monco del tradizionale ponte, ma con saracinesche alzate, grazie al concomitante Salone del Mobile. Visto che, nonostante i 20 gradi degli ultimi giorni, i registratori di cassa battono scontrini con il contagocce, come è già accaduto lo scorso autunno. Del resto c'è chi ha spedito ai clienti abituali un cartoncino dotato di codice a barre per offrire entro il 31 marzo uno sconto del 20% su borse, scarpe e abbigliamento. Insomma, spiega Paola Bottelli, i consumatori si sono fatti furbi, restano in paziente attesa di prezzi più abbordabili e i ricarichi di un tempo sono finiti fuori mercato con inevitabili ripercussioni sui margini 2009 di tutte le aziende dopo le già gravi difficoltà di fine 2008. Questa è la segnalazione di Paola Bottelli che prendiamo dal Sole 24 Ore di oggi. Veniamo alle altre notizie in evidenza sui quotidiani. La Stampa decide di dare il suo titolo più importante della prima pagina all'intervento del Presidente della Repubblica Napolitano. Crisi, l'Italia ha problemi seri. Napolitano, ma niente pessimismo. Si segnala sempre nel titolo della Stampa che in Piemonte sono stati persi 105.000 posti in 6 mesi. Il Quirinale ha anche invitato a eliminare la burocrazia che frena il paese e Berlusconi ha confermato ieri ai commercianti la revisione degli studi di settore, argomento di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il progetto è avviato, il progetto di revisione complessiva di questo meccanismo di attribuzione del reddito corretto è stato avviato da tempo e dovrebbe concludersi entro appunto la fine di marzo, i primi giorni di aprile. Sopra il titolo principale la stampa ha una foto di un soldato del Camerun davanti a un manifesto che raffigura il Papa, e il titolo viene dedicato, il titolo accanto a questa foto, alle critiche, alle polemiche sulle parole del Papa. AIDS e condom, l'Europa contro il Papa. Essenziale l'uso del profilattico, la posizione europea, il Vaticano che ribatte stravolto il discorso. A centro pagina della stampa i tafferugli di ieri all'Università La Sapienza di Roma. Dopo Torino, Padova e Tor Vergata, scontri alla Sapienza di Roma, Università La Violenza Quotidiana. Nella foto si vede uno studente a volto coperto che lancia un San Pietrino, un sasso, in direzione degli agenti. E poi naturalmente sulla stampa anche il richiamo alla rivolta di quelli che il quotidiano di Torino chiama peones. Inaccettabile che i medici denuncino i clandestini, peones in rivolta, fini è con noi, sicurezza, il no di 101 deputati del Popolo della Libertà. Il Giorno decide di aprire sulla vicenda della castrazione chimica. Ricorderete che c'è stato un emendamento proposto dalla Lega per introdurre la castrazione chimica a danno nei confronti degli stupratori. Si riferisce del caso della Repubblica Ceca, dove si interviene con una castrazione chirurgica però sui pedofili killer. La legge del taglione, il titolo del Giorno, il titolo principale del Giorno. E poi naturalmente ancora per la cronaca la vicenda di Josef Fritzl, il mostro di cui si dovrebbe conoscere l'esito della sentenza proprio oggi, le lacrime del mostro, lasciai morire il bambino. Questo dà il Giorno di oggi. Il Secolo XIX dà il suo primo titolo alla vicenda proprio della rivolta, come viene chiamata, dei parlamentari sulla denunciabilità, sull'obbligo o facoltà di denuncia dei clandestini da parte dei medici. Rivolta nel PDL, no ai medici spia, inaccettabile, niente fiducia, firmano 100 deputati. Questo è il titolo principale del quotidiano genovese. Per quanto riguarda sempre la prima pagina del Secolo XIX, si segnala il caso amianto. Ricorderete che proprio ieri dal Secolo XIX in prima pagina c'era il rammarico perché era venuta meno la norma che doveva salvare le pensioni riconosciute ai lavoratori danneggiati dall'amianto. Caso amianto, pronto un altro emendamento salva pensioni, frenetico lavoro dei parlamentari liguri, l'obiettivo è impedire che i pensionati si vedano gravemente danneggiati. Questo il richiamo in prima pagina del Secolo XIX. Corriere della Sera. Quello della sera, il primo titolo è quello della polemica tra il Papa tra il Vaticano e i governi europei. AIDS, dure critiche al Papa, Unione Europea, Francia e Germania preoccupano, le sue frasi sul preservativo. Il Vaticano replica, il profilattico non è la via migliore. Le critiche dell'Europa al Papa sono poi trattate all'interno del quotidiano di Via Solferino. Secondo titolo, per ordine di evidenza, sul quotidiano di Milano, norme anticlandestini, la rivolta dei 101 deputati PDL. 101 deputati del PDL respingono la norma che obbliga i medici a denunciare i clandestini. E la Lega è naturalmente contro Fini. Nella prima pagina del Corriere della Sera, anche qui una foto sulla vicenda degli scontri tra studenti e polizia avvenuti ieri alla Sapienza. Allora, vediamo dal Messaggero, che è il quotidiano di Roma, come questa vicenda viene trattata. Naturalmente anche il Messaggero ha come primo titolo la polemica tra i governi europei e il Vaticano sulla vicenda dell'AIDS, ma nella parte alta della prima pagina, svolta a Roma, stop al corteo, non autorizzato alla Sapienza, tafferugli tra Onda e Polizia. L'Onda, cioè il movimento di protesta spontanea nato tra gli studenti. Applicata la nuova normativa, non si tratta di una normativa per ridurre i cortei nella capitale, una normativa di sorveglianza sulle manifestazioni non autorizzate, e Alemanno che dice, annuncia proprio dalla prima pagina del Messaggero, rispettare il protocollo. Svolta a Roma, riferisce appunto il Messaggero, applicato per la prima volta il protocollo che regolamenta manifestazioni e scioperi. Il corteo dell'Onda della Sapienza non è autorizzato e intende uscire dall'università, ma la polizia, su indicazione della prefettura, lo blocca. Inizia un cammino complesso per far uscire la città dal clima di anarchia permanente nel quale ha galleggiato a lungo ed entrare nel mondo delle regole, dove convivono il diritto alla protesta con quelli alla mobilità e a vivere la propria città. Poi all'interno, naturalmente, il Messaggero propone due pagine su questa vicenda del corteo non autorizzato, gli scontri alla Sapienza, e il sindaco di Roma, appunto Gianni Alemanno, che dice: è stato appena firmato un protocollo in prefettura per evitare la proliferazione delle manifestazioni. Non possiamo ricominciare con cortei di 2, 3, 400 persone che si muovono per la città. Il malessere dell'università viene in realtà poi ripreso anche dalla Stampa, quotidiano di Torino, nelle pagine interne, perché si spiega, il titolo è, diciamo, guarda oltre la vicenda dell'ordine pubblico e della vivibilità nella capitale. Il titolo interno dice: studenti polizia, torna la violenza all'università. E un'intervista dal titolo poco rassicurante al sociologo Domenico De Masi dice: il peggio deve ancora venire, negli Atenei tutto è catastrofico. Vedremo se nella seconda parte di questa rassegna avremo tempo di leggere qualche brano di questa intervista a De Masi, che segnala appunto le preoccupazioni dei giovani in materia di università, di diritto allo studio e di loro futuro. Allora, si parla molto di AIDS e Papa. Concludiamo, prima del traffico, il nostro sguardo alle prime pagine con Avvenire, quotidiano Conferenza Episcopale Italiana. Naturalmente il primo titolo è sul viaggio del Papa in Africa, il titolo è Ridare speranza agli esclusi. Benedetto XVI incoraggia l'impegno per la giustizia e lo sviluppo in Africa, invita le donne a far crescere il loro ruolo nella Chiesa e nella società. E nei richiami della prima pagina dell'Avvenire, ministri francesi e tedeschi polemici per il no ai profilattici, la Santa Sede ribadisce che contro l'AIDS è prioritario educare all'uso responsabile della sessualità. Eravamo sull'Avvenire per vedere come appunto il quotidiano vicino alla Conferenza Episcopale Italiana spiega la posizione del Vaticano su questa polemica tra i governi e la Santa Sede in materia di utilizzo dei profilattici. Ci sono due pagine interne dedicate al viaggio del Papa, in una in particolare si affronta questo tema, il titolo è Una sessualità responsabile, prima risposta contro l'AIDS, e l'articolo di Mimmo Muolo riprende le dichiarazioni del portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, che appunto si riferisce nell'articolo, torna sulle parole pronunciate in aereo da Benedetto XVI, vengono riportate anche queste parole: la malattia non si combatte distribuendo preservativi, e approfondisce il pensiero del Papa, che ha suscitato un'ondata di proteste non solo sui media del primo mondo, ma anche in alcune cancellerie occidentali. Contrasto che risulta ancora più stridente, spiega Mimmo Muolo, se confrontato con l'entusiasmo con cui gli abitanti di Yaoundé hanno accolto il vescovo di Roma. E in un sommario che accompagna questo lungo articolo di Muolo si spiega che nelle dichiarazioni di padre Lombardi viene ribadito che contro la malattia da HIV occorre educare alla responsabilità nell'uso della sessualità, promuovere matrimonio e famiglia, terapie efficaci e accessibili a tutti. Questa è la replica vaticana alle dure critiche venute dai governi europei. Però c'è un'altra notizia che in qualche modo parla di famiglia, parla di figli, è un po' qua e là su alcuni giornali, non l'ho trovata segnalata nelle prime pagine, ma la prendiamo da Libero. Libero ci spiega in una pagina interna: aborto per far quadrare i conti, il caro bambino. Il direttore sanitario della Mangiagalli di Milano spiega che sono in aumento le richieste di aiuto di italiane in difficoltà. Di che cosa si tratta? C'è una preoccupazione della Mangiagalli di Milano, che è una delle cliniche di ostetricia e ginecologia più importanti del paese. Secondo il direttore sanitario, negli ultimi 3-4 mesi sono aumentate le richieste di aiuto sulle interruzioni di gravidanza, il che, precisa il direttore sanitario, non significa necessariamente un aumento degli aborti, ma una tendenza sì, per quanto riguarda soprattutto il tipo di donne che si rivolgono alla struttura. Spiegano poi dal centro di aiuto alla vita, che fa capo alla stessa Mangiagalli, che c'è una motivazione economica che sta spingendo questo tipo di richieste. Chi decide di abortire non se la sente di privarsi del poco denaro a disposizione per fronteggiare le spese. Ecco, il fatto che mantenere un figlio porti a considerare la difficoltà nel mantenere un figlio porti a considerare anche l'idea dell'aborto, mi pareva una notizia che in qualche modo andasse sottolineata. Sempre su Libero prosegue questa segnalazione dei lavori in offerta, della possibilità di trovare lavoro, due pagine dedicate appunto a lavoro offresi. Volevo con questo ricordarvi che oltre a questa segnalazione di Libero c'è anche l'iniziativa che trovate sul sito del Sole 24 Ore e su Job 24, appunto il portale dedicato al lavoro, raggiungibile sempre dal sito del Sole 24 Ore, dove sono segnalate le offerte di lavoro. In questo momento ci sono online 9.000 offerte, come ricorda il chiamo il Sole 24 Ore a pagina 2. Vediamo qualche altro argomento. Stavamo parlando del malessere dell'università. Il malessere dell'università segnalato dalla stampa in questa intervista a Domenico De Masi. De Masi dice: c'è un contesto nell'università a dir poco catastrofico, tagli a non finire, un numero enorme di professori cosiddetti a contratto che guadagnano 1.500 euro. Attenzione, non al mese, ma all'anno, e dovrebbero tenere al massimo un ciclo di conferenze. Invece fanno i professori a pieno titolo, tengono lezione, seguono lauree, fanno ricevimento. E poi c'è il problema naturalmente degli sbocchi lavorativi per gli studenti, che viene pure segnalato da De Masi. Ho allievi laureati brillantemente che fanno il cameriere al bar, oppure il bigliettaio sul treno, il giornalaio, ne sono pieni i call center. Una pulisce le scale ai parioli, lo giuro, si adattano a tutto. Questa necessità di adattarsi al di là del proprio titolo di studio viene ripresa anche da un'inchiesta presentata oggi sul Corriere della Sera. L'Italia non è un paese per giovani. Prima dei 40 anni è difficile affermarsi sul lavoro e diventare indipendenti dalla propria famiglia, è il titolo dell'inchiesta in due pagine interne sul Corriere della Sera. E appunto una giovane dottoressa in legge, Silvia Vitelli si chiama, dice: si chiede, ma io sarò un avvocato o un parafangaro? Parafangaro, colui che si occupa di diti bagatellari, in questo senso di piccoli incidenti stradali. Sembrerebbe, rispetto a quello che dice De Masi, persino una prospettiva comunque accettabile, perché vorrebbe dire fare comunque il mestiere per cui si è studiato. Ancora al Corriere della Sera, il problema dei giurati che consultano Facebook e così portano all'annullamento, al vizio dei processi. Giurie corrotte da Facebook, decine di processi annullati. Perché? Perché secondo la norma statunitense i giudici popolari dovrebbero essere isolati, ma molti navigano in rete prima del verdetto, e quindi è successo che lunedì, poco prima della lettura del verdetto, è stato chiesto l'annullamento del processo perché uno dei giudici popolari aveva informato amici e familiari sull'andamento della causa tramite appunto Facebook e Twitter, che è un altro sito di questi social network. E il tempo credo che a nostra disposizione sia scaduto.